О, бабушки, дедушки, дети, мужчины, прекрасные леди, все это для вас. Just you and me. Town civilization, Tam Tam is the hangout spot for the macho man. They all dropped down late that night. The macho DJ's been boogie with the side. It would stop Rudy in a caravan and rock everybody buddy with a macho man. Macho man, macho man. Give me

non son degno di te, non ti merito più. Ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te. Ma quando a sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore, in me questa sera è nato l'amore per te. E va bene così, me ne vado da te. Ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, amore. Sui monti di pietra può nascere un fiore, ti merito più. Ma quando a sera tu resterai sola, ricorda qualcuno AT40 counts them down. We're counting down the hottest hits in the land, and they don't stop till we reach the top. Okay. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Good evening. Bonsoir. Good evening to you here in the Dorothy Chandler Pavilion, and hello out there to the each and every one of you on the face of the earth who can see me and hear my voice. This country. Crazy.